c'è un che di profondamente cristiano nell'ormai perdurante campagna pubblicitaria delle mutandine cotonella. L'avrete tutti presente, è quella della ragazza arciere nuda mentre tende l'arco, la cui elasticità sembrerebbe pari all'unico indumento che la ragazza indossa, per l'appunto le mutandine, le sole al mondo peraltro a potersi fregiare del superlativo assoluto, cotonella è il più elastico degli slip. Fino a qualche tempo fa, tuttavia, qualcuno avrebbe potuto pensare che la ragazza in questione fosse un'amazzone, perché ripresa com'era di lato mostrava una sola mammella. I più fantasiosi avrebbero potuto tornare all'antica leggenda che prescriveva il sacrificio del comparto anatomico per far sì che la freccia raggiungesse meglio il suo bersaglio. La ragion di Stato dunque al posto del programma genetico. Oggi sappiamo che le cose non stavano così. Lo slip cotonella è infatti ricomparso fra noi, aggiungendo alla vecchia immagine guerresca una sorta di immagine che ne rappresenta la sequenza succedanea e complementare. Il fotografo, come procedendo nella sua circumnavigazione della fanciulla, da destra a sinistra, il fotografo ne ha finalmente colto anche la seconda mammella, che dunque c'è e che a ben guardarla sarebbe stato anche un peccato tagliare. L'arco, allora, come le mutandine, continua a tendersi perfettamente, anche se il seno, come collettivo di mammelle tenere ma modestamente dimensionate, continua a interporsi sul tragitto della mano e della corda. Il senso di profonda cristianità della cosa non può sfuggire. Nonostante che Samuel Brandon, in quel testo fondamentale che è stato Gesù e gli Zeloti, ci ricorda che in Matteo 10:34 Gesù dica: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Non sono venuto a portare pace, ma una spada. Una certa tradizione evangelica, nonostante questa citazione di Brandon, una certa tradizione evangelica più all'acqua di rose, diciamo, preferisce rammentare quell'insegnamento di un Cristo più bonaccione che esige di porgere l'altra guancia qualora la prima abbia già ricevuto il suo insulto. E così è per il corpo della donna. Ancora una volta strumentalizzata e vilipesa, in questo caso per vendere mutandine, in altri casi per vendere di tutto, se stessa compresa, ridotta a messaggio per tradursi in riflesso condizionato del sesso, insultata nella sua corporeità più specifica, porge l'altra mammella. Say baby, you know I want you to let your life.